diario di un giorno. Cronache dal sociale di Cristina Carpinelli. Poi una volta che cominci la curiosità aumenta, per cui piace, poi a me piace tantissimo, io passo un sacco di tempo. Quella che avete appena sentito è una donna di oltre 70 anni che da poco tempo ha imparato ad usare il PC e poi ha creato degli account su alcuni social network che nei giorni della quarantena collegata alla pandemia le hanno permesso di restare in contatto coi suoi cari, comprare libri, fare la spesa, chiedere documenti. Come lei, tante altre persone, over 65, che in tempi non sospetti avevano deciso di prendere parte a un corso sulla digitalizzazione. Siamo in Umbria, qui è nato Hashtag Gemma, un progetto di inclusione sociale e culturale pensato per i più anziani, di fatto la fascia che rischia con l'avanzare della digitalizzazione di rimanere esclusa, se non in alcuni casi addirittura isolata. Ad esempio, la signora Anna Panacci, che vive in una frazione di campagna a Montone, in provincia di Perugia, seguendo questi corsi ha scoperto di avere pochissima connessione, ha provveduto per tempo ed oggi riesce a sbrigare molte pratiche dalla sua casa. Perché essendo isolati per forza maggiore, poi ho i figli lontano. E i suoi figli cosa dicono del fatto che lei sta facendo questi corsi per imparare di più a usare il computer, per imparare di più a usare... Sono contenti, perché sennò era un po' le scatole sempre a loro, specialmente a uno. Io ne ho tre di figli, però una è in casa con noi, la più piccola ancora è con noi, e quindi quando non so qualcosa la tampino sempre, mi faccio aiutare. Che cos'è che le ha dato di più? Cioè, che cos'è che le è sembrato più utile imparare in questo corso? Allora, io sono un tipo che mi piace stare anche sempre in compagnia, abitando in campagna, abitando così, se c'è qualche occasione per stare anche con qualcun altro, per fare queste cose, perché io dico sì, tanti dicono che internet o i cellulari sono dei perditempo. Uno, mio marito, che qua vicino con me, vede solo i lati negativi, mentre invece per me, se usato diciamo a dovere, è una cosa utilissima, specialmente, che ne so, adesso per esempio noi anche per ritirare gli esiti delle, quando si fanno le analisi, che ne so, oppure tantissime altre cose con la banca, anche per fare dei bonifici, cioè ci sono veramente delle cose utili, quindi io quando posso lo uso, diciamo. Ci sono delle cose, per dire, durante la quarantena che si è resa conto, ha detto guarda che roba, che meraviglia avere appunto questo strumento. Non solo nella quarantena, io lo dico sempre, anche da quando è partito il cellulare. Cioè le innovazioni io le apprezzo sempre molto, cioè nella vita anche del passato, mi piace sempre ricordare anche il passato, le cose positive e belle che ci sono state, però sempre con lo sguardo se si può fare qualcosa di positivo, di utile, di valido. Secondo alcuni studi, le iniziative di alfabetizzazione digitale possono far aumentare del 50% le capacità delle persone di svolgere attività quotidiane e ridurre i sintomi di depressione, perché si tratta di competenze che permettono di guardare al futuro e di creare relazioni, come ben racconta Nadia Gianchetta, 73 anni. Beh, ho imparato diverse cose, diverse applicazioni, ci sono state dette alcune informazioni sulla rete, no? Ecco, quella è una cosa che io per esempio conoscevo molto parzialmente, tutti gli sviluppi che ci saranno nel futuro, da 3G a 4G al prossimo 5G. Ormai il mondo va verso il digitale e dobbiamo imparare, non possiamo restare indietro noi vecchi. C'è niente da fare, dobbiamo imparare, specialmente in questo periodo è stato fondamentale avere certe informazioni, altrimenti siamo proprio fuori dal mondo. E questo è una cosa buona, solo che noi vecchi siamo duri a voler imparare certe cose. io a mia volta insegno anche le cose che imparo, le insegno anche alle mie sorelle, che sono già un po' più ostiche su questo argomento, non è facile. C'è mia cugina che ha 80 anni, io gli ho insegnato un sacco di cose, non sapeva neanche accendere il telefono, adesso accende, va su internet, guarda Facebook, ho preso libri digitali, ho imparato a prendere, che non è stata una cosa facile anche quella. Perché ci sono anche diverse paure, no, a fare certi passaggi, paura proprio di sbagliare, magari finire... Sì, mia cugina per esempio ieri mi diceva, dice ma io ogni volta che entro su internet mi sono fuori, accetta, io ho paura, non accetto niente. Per cui, insomma, questo gruppo è importante, è fondamentale, soltanto che non è facile, insomma, divulgarlo. Noi vecchi abbiamo sempre un sacco da fare, ma che ci abbiamo da fare non ho capito, ma insomma abbiamo sempre tanto da fare. I nipoti, questi nipoti che occupano il 90% del tempo, per carità, sono fondamentali i nipoti, però non è che possiamo morire dietro ai nipoti, voglio dire, non lo so, vabbè, questa è una mia idea. In fondo anche Nadia, con i suoi 73 anni, abbatte molti luoghi comuni sulle persone anziane e, come vedremo nel corso di questa puntata, ne scardineremo molti altri, anche nel corso della prossima intervista. Allora, io mi chiamo Ilaria Russo, ho 31 anni, vivo a Perugia e sono una collaboratrice dell'ente formazione e al momento collaboro con loro al progetto Gemma e sono la local coach di Perugia. Tu di fatto sei una nativa digitale, no? Perché hai 30 anni, sì. Come ti trovi a parlare con persone che non sono invece native digitali? Quindi, tra virgolette, per mia fortuna io ho a che fare con... su questo argomento molto spesso con mia madre, in un certo senso la mia palestra l'ho già fatta. E tu invece che cosa stai imparando da loro? Perché sicuramente ci sarà anche uno scambio al contrario. Sicuramente il fatto che sì, non sono nativi digitali, ma apprendono molto molto velocemente e ti forniscono un altro punto di vista delle cose. Mi sono resa conto di quanto queste sono solo dei mezzi, sono solo strumenti che mediano, perché loro sì, vogliono imparare, ma ti fanno capire di quanto sia importante farle le cose senza che l'esperienza sia mediata, che loro ci hanno fatto capire più volte anche facendo queste dirette, che sì possiamo fare la spesa online, possiamo acquistare tutto online, possiamo fare tutto tramite il telefono, però ha tutto un altro senso farlo dal vivo. Abbiamo fatto anche la diretta per spiegare loro come scaricare le app per giocare a burraco, per fare tutte le attività possibili e immaginabili. Però perdi qualcosa la perdi, e loro ti ricordano che c'è quella cosa che perdi. Cioè, nel momento in cui tutto doveva essere digitale e ne sentivi l'esigenza, ti rendevi conto che è un mondo estremo, non è così che dovrebbe andare. È importante fornire loro gli strumenti perché il mondo va in quella direzione. Però... Quindi praticamente qua c'è un passaggio al contrario, incredibile, perché io ho sentito prima tutti gli over 65 che stanno dicendo invece spingiamoci, andiamo oltre, e tu invece stai facendo, avendo avuto il contatto con loro, stai facendo il passaggio contrario. Dici... Sì, io sì, forse è una cosa solo mia. Anche per lavoro sono sempre davanti al computer, uso sempre il telefono, la televisione, la smart TV, le app, ordini la PC. Io mi sono resa conto che si può fare, che se ne può fare a meno, bisogna saperli usare perché ti devi proteggere, c'è la privacy, devi essere cosciente quando usi queste cose. Magari loro sono molto più coscienti. Cioè, secondo me loro il concetto di privacy, il concetto di utilizzare una cosa con i dovuti tempi, loro ce l'hanno innata. Noi no. Il percorso Gemma è un progetto di animazione digitale finanziato dalla Regione Umbria. Propone percorsi gratuiti di sapere digitale dedicati agli over 65. Si sviluppa su diverse piattaforme e ha toccato, in piena quarantena, oltre 10.000 contatti su un social network molto seguito. Io mi chiamo Giuseppe Calderaro, 37 anni, collaboro al progetto Gemma. Fino ai primi di marzo abbiamo realizzato dei laboratori in presenza e abbiamo realizzato oltre 140 laboratori, cioè brevi incontri in cui si parlava di argomenti digitali, cercando di dare ai cittadini degli strumenti per utilizzare le nuove tecnologie, soprattutto in merito alla pubblica amministrazione, quindi ai servizi digitali della pubblica amministrazione. E abbiamo avuto una presenza di oltre 1200 presenze, e dopodiché a causa dell'emergenza il progetto Gemma si è trasformato in Emergemma, quindi siamo passati in ambienti digitali dove abbiamo realizzato dal 9 aprile, abbiamo avuto oltre 10.000 visualizzazioni. C'è un bisogno reale di questa iniziativa. Le persone, soprattutto in questo periodo, hanno capito, hanno, come dire, constatato l'esigenza di imparare ad utilizzare le nuove tecnologie. Oggi sapersi orientare su internet è di fatto indispensabile. Non saper accedere a questi strumenti rischia di ridurre le possibilità di inclusione in una società sempre più digitale. Progetti pensati per alfabetizzare le persone anziane sono un tema di grande importanza sociale e di questo continuiamo a parlare tra pochissimo. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a 2didenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Secondo un rapporto sulla comunicazione del Censis del 2019, esiste ancora nel nostro paese una distanza abissale tra giovani e anziani. Se tra gli under 30 la quota di utenti di internet supera il 90%, tra gli over 65 è ferma al 42%. La percentuale si riduce ulteriormente se si parla di piattaforme usate dalla quasi totalità degli under 30, ma dal 19% degli anziani. Sono i due estremi di una rivoluzione che vede da un lato chi usufruisce di tali servizi e chi ne è praticamente escluso. Per questo sono nati progetti sociali di inclusione, come quello che raccontiamo in questa puntata, il progetto Gemma, in cui gli insegnanti hanno 30 anni e gli allievi più di 65, ma in molti casi anche più di 70. Sono Anna Schippe e sono la coordinatrice del progetto Gemma. Allora, questo progetto nasce da un'idea che noi abbiamo avuto circa ormai 20 anni fa, in cui abbiamo fatto il primo progetto Gemma, che era un progetto di alfabetizzazione informatica dei cittadini, per cui si facevano corsi di informatica di base a tutti quelli che erano considerati cittadini, diciamo così, più deboli dal punto di vista informatico. Si era fatta un'analisi della popolazione utente, quindi ovviamente andando ad analizzare i dati della popolazione di Perugia, andando a vedere l'età, il titolo di studio, se lavorava o non lavorava, che tipo di lavoro faceva, in modo da individuare tutti quelli che avevano più difficoltà a rapportarsi con i sistemi informatici. Questo quando nasce? Nasce quando il Comune di Perugia, quindi parliamo veramente di quasi 20 anni fa, ha iniziato a mettere online una serie di servizi. 2 anni fa l'abbiamo ripreso, passando però dalle competenze informatiche alle competenze digitali. E abbiamo visto che in quasi tutte le aree sociali il fabbisogno dei saperi digitali è legato, ovviamente, abbastanza scontato, alla cittadinanza over 65. Noi abbiamo individuato anche dei local coach, che sono delle persone che sono sempre a disposizione di piccoli territori. Cioè loro fanno animazioni, ma fanno anche proprio aiuto per problematiche così puntuali. Pensiamo, che ne so, a un cittadino che deve scaricare i risultati delle analisi e non glielo fanno, ma lo aiutano a farlo, perché il nostro obiettivo è comunque far crescere e quindi educare, far crescere le competenze digitali. Quindi non vanno, come succedeva una volta, allo sportello e qualcuno glielo fa, ma si siedono vicino al local coach e il local coach insieme all'utente fa questa operazione. Ci si avvicina ai corsi perché si ha bisogno di stare al passo o anche per una forte passione. Quella fotografica, ad esempio, ha mosso Giancarlo Battisti, 72 anni. A me piace l'informatica, anche se ho un'età un po' avanzata, però mi piace andare su internet un pochino, mi piace la posta elettronica, mi piace la fotografia, elaborare un po' le fotografie. E questo corso l'ha aiutata a potenziare le sue conoscenze? Sì. Ho capito certi concetti, ho visto certe cose, quindi sicuramente mi ha aperto il mondo un pochino, insomma, ecco. L'ha aiutata anche a vivere meglio il momento dell'emergenza, dell'isolamento, della quarantena? Beh sì, perché praticamente ho usato da più il computer, quindi ho fatto anche le videoconferenze con degli amici, sia con WhatsApp che con Skype. E ha trasmesso alcune sue conoscenze anche ai suoi amici coetanei? Ma diciamo che c'è stato un paio di persone che, parlando, una delle due è venuta poi al corso anche lui. Ma... Senta, ma ecco, un'altra domanda che volevo fare è se ha sì. Confronti con ragazzi giovani, cioè tipo nipoti piuttosto che... Sì. Io ho un nipote di 17 anni. E cosa gli ha detto il nipote di 17 anni? Il nipote... entusiasta, perché addirittura una decina d'anni fa, quando mi hanno visto su Facebook, sono rimasti stupiti, perché diciamo avevo già 62 anni, e quindi loro: ah nonno, sei su Facebook, qui, insomma, entusiasti, contenti. Nonno, metti WhatsApp, che così ci mandiamo le foto, ci mandiamo, lo metto su WhatsApp. Quindi è stato un po' un come dire, un intercalare per di noi. Sto spronando anche mia moglie, che ha la stessa mia età, la quale non ha partecipato al corso perché abbiamo anche una nipotina piccola, per cui eravamo un po' impegnati. Mia moglie da zero adesso usa WhatsApp, un pochino YouTube, anche durante la quarantena su YouTube ha trovato quel personal trainer che fanno le lezioni di ginnastica, che lei è una che fa 7-8 km al giorno e va in palestra, e quindi l'ha aiutata YouTube ad avere questo istruttore che le faceva fare gli esercizi. Insomma, ecco, un'altra cosa che mi interessava a me era quella di non incorrere in cose spiacevoli, insomma, ecco, usando magari internet in modo un po', come dire, casuale, no? Come autodidatta. E invece è stato capace di gestire tutto, sì, anche sì, diciamo che sì, ma mi hanno aperto anche sulle truffe. Io sono rimasto soddisfatto, le dico francamente che quando è stato interrotto mi è dispiaciuto molto, e se dovesse riprendere da capo lo rifaccio da capo, perché con questa infarinatura che ormai ho probabilmente recepisco meglio anche gli stessi argomenti, insomma, ecco. Anziani e divario digitale, e di fatto questo è il tema di oggi, un tema che pesa molto sulla nostra società. Se è vero che aumentano le persone che usano social network, è vero anche che molte altre cose vanno gestite con competenza, come spiega Chiara Montagnini, 36 anni, una delle tutor del progetto Gemma. Sì, in effetti c'è una certa diffidenza, diciamo, nel fatto che non capiscono dove vanno a finire i loro dati, cosa succede se loro mettono delle fotografie su internet, cosa succede se sbagliano a digitare una cosa. Ho imparato a dialogare con persone molto più grandi di me, usare anche un linguaggio più semplice per spiegare cose anche complicate, diciamo. La voglia di mettersi in gioco, perché loro comunque con questa cosa si sono messi in gioco, hanno affrontato anche, no, delle cose che loro vedevano in maniera spaventosa o comunque non avevano dimestichezza. Quindi il mettersi in relazione ad una cosa completamente nuova per loro a me ha insegnato tanto. Assunta Lepri era un medico, oggi è in pensione e ha scelto di continuare a imparare, e lo fa con molta ironia. Io sono già abbastanza esperta in internet, però ci sono delle cose che non so fare, perché ho imparato internet come autodidatta. E che cos'è che hai imparato a usare che prima non sapeva usare? le piattaforme. Ho imparato a usare le piattaforme, le riunioni su WhatsApp, Facebook per intero, perché già lo usavo, ma non con l'abilità, no? E quindi questo è stato l'aspetto più importante. Per quello che mi riguarda è stato l'aspetto più importante. Cioè, si è sentita anche, come dire, ringiovanita facendo questo corso, cercando di colmare questa lacuna che aveva? Quello io che, come si può dire, sono già consapevole di essere parecchio parecchio più svelta delle donne della mia stessa età e degli uomini della mia stessa età. Quello, lo ero già da prima, estremamente presuntuosa. Con Gemma praticamente sono diventata tipo supereroe. Guarda che poi dopo io passo le informazioni a tutti quelli che mi capitano a tiro e a tutte quelle che mi capitano a tiro. Perché è una generazione, la vostra, che se non, cioè, in molti casi è rimasta indietro, perché appunto c'è questo problema di fatto, no, nella vostra generazione. Vabbè, ma certo, ma scherzi? Cioè, non solo, cioè, guarda, solo per dire un esempio, no? C'è una carissima amica, no? A cui io tengo molto, che per esempio si porta dietro un vecchio telefono che non va su internet, va bene? Un vecchio telefono che non c'è WhatsApp, cioè un telefono di quelli antichi praticamente. Lei ha avuto questa cosa che purtroppo ha rotto una gamba e quindi è dovuta andare in ospedale con le misure del Covid, per cui la sua famiglia è dovuta stare indietro rispetto a questa cosa, no? Io ho cercato in tutti i modi di convincerla, no? Che in questo momento non esiste isolamento se tu hai la possibilità di accedere a WhatsApp. La prima cosa che ti dicono, io non ho studiato abbastanza, mi trovo in difficoltà, non ci leggo, cioè c'è un sacco di resistenze, no? Per l'accesso a sto mondo, perché questo è il mondo, no? E praticamente durante il periodo dell'isolamento del Covid, io con la mia famiglia videochiamate, per fortuna la possibilità, io vivo sola, sì. Quindi per fortuna la possibilità di poter accedere alle videochiamate con gli amici, con la mia famiglia, quindi questo è stato enorme. I suoi nipoti cosa dicono di lei? I miei nipoti, allora, i miei nipoti frequentemente litighiamo, ma loro sono, come si può dire, super tecnologici in realtà. E ma perché allora litigate? Io insisto a dare consigli e loro soffrendono perché dicono che non me lo posso permettere perché sono tonta. E invece ho avuto degli ottimi riscontri, perché doveva fare poi la piattaforma per esame, no? E io ho insistito per quasi una settimana per dirmi: guarda, sta attento, iscriviti alla piattaforma, fa qualche passaggio, perché se te ci ritrovi proprio in quel momento può darsi che qualcosa va male. E siccome ho avuto ragione, perché io gli avevo detto iscriviti alla piattaforma e lui non ci ha fatto, ha detto tanto, dai, io sono capace, sono capace, sono capace, quando si è dovuto iscrivere alla piattaforma mi si è iscritto e quindi ha perso l'esame. Non mi ha parlato per 2 settimane. Siccome lui è blogger, no? E quindi ha una grande capacità in internet, eccetera, che io potessi avere ragione, no? Non me la voleva diventa, no? E il fatto che ha perso la sessione d'esame e io gliene avevo detto, la sua opinione è che gliene ho gufata io. Diario termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.